Padri Eterni di Matteo Bussola e Federico Taddia. Buona domenica da Federico Taddia. Matteo Bussola. Ciao Matteo. Ciao Federico. Come stai? Lo so. È una settimana così. Una settimana intensa. Due padri che parlano ai padri, parlano di paternità, questo è i Padri Eterni. Due padri non particolarmente tifosi di calcio, cioè così, mediamente. Mediamente. Non fanatici, diciamo. Non fanatici, però diciamo che quando c'è di mezzo la nazionale, ecco, anche i non fanatici riscoprono questo fuoco che arde, esatto. E che è stato spento con una secchiata questa settimana. No, insomma, dai, diciamoci la verità, è una settimana un po' difficile, un po' triste, un po' per tutti, per l'eliminazione della nazionale dai mondiali. E tra l'altro a me personalmente, devo dire, pur da non tifoso, dà fastidio questo atteggiamento un po' snobbettino a volte da parte di chi il calcio non lo segue, no? Come se il calcio fosse una cosa poco importante. E alla fine, insomma, il calcio fa parte del nostro patrimonio culturale, no? Comunque è la nostra epica, certo, contemporanea. Ma poi attiva relazioni padre e figli. Io, insomma, ricordo quando ero bambino che mi guardavo i mondiali e c'era mio padre lì che saltava dalla sedia, si arrabbiava, urlava. Io la partita con la Svezia l'ho vista insieme a mio figlio, quindi la nostra tristezza reciproca. Comunque no, nascono commenti, scattano commenti. Oggi parleremo anche di questo. Come sempre, le coordinate, radio24.it, il nostro sito. Da lì potrete scaricare il podcast della puntata, potete mandarci mail oppure potete trovarci nella nostra pagina ufficiale di Facebook. E oggi partiamo proprio da qui, da fare pace con il pallone. Che abbia vinto, no, mi sono divertito. Certi vincono, altri invece fanno tifo. A volte non conta chi sei, i sogni vanno e vengono. Ma se faccio un gol per me, ok, che abbia vinto o no. La vita è una partita, bisogna fare gol. Io ho messo qualche palla in rete, che abbia vinto o no. Forse ho perso dei treni, ma ho fatto ciò che voglio. Per questo oggi entro in campo pieno d'orgoglio e ne ho fatta strada. Da quando stavo tutto il giorno in strada, con mia mamma si litigavo, odiavo quella casa. Oggi che vivo solo con tutti i difetti miei, capisco che in effetti ci aveva ragione lei. Conosco gente ricca, che sogna una famiglia, ma resta sola fino al giorno in cui si picca. Mio fratello a modo suo, la partita l'ha vinta, tira la cinghia, ma quando torna a casa riabbraccia sua figlia. Non pensare a loro, tu vivi anche se con Amy Skill. Andiamo a introdurre il nostro ospite. Il calcio come passaggio di testimone, il gioco come occasione di crescita, questo è il sottotitolo del libro Un giorno questo calcio sarà tuo, storie di padri e figli e di pallone, scritto dall'autore televisivo e giornalista e scrittore Fulvio Paglialunga, che è qua con noi. Ciao Fulvio, buona domenica. Buona domenica a voi. Ciao Fulvio. Ciao. Allora, insomma, siamo reduci da una eliminazione scottante, stiamo reduci da tante parole, da questa generazione millennials che non potrà avere questo pezzo di memoria appunto nel suo cassetto dei ricordi. Perché? Perché non andremo ai mondiali. Sentiamo il bisogno di ricostruire un rapporto con il calcio, e crediamo che il tuo libro possa essere la strada giusta. Cosa hai raccontato? Beh, ho raccontato cosa è il calcio nel rapporto tra padre e figlio, ho raccontato come possa diventare un enorme strumento di condivisione. Prima sentivo le vostre parole all'inizio, sentivo che insomma anche voi davate passato con i vostri figli e avete sofferto insieme. Ecco, soffrire è una condizione del calcio, una delle condizioni principi del calcio. Ed è il calcio diventa uno strumento di condivisione proprio per questo, perché comunque unisce in un sentimento molto forte e molto concentrato, spesso in 90 minuti. Quindi ho raccontato questo, l'ho raccontato attraverso la mia esperienza di padre e l'ho raccontato attraverso tante storie di padri e figli che sono comunque legate al calcio. Quindi attraverso gli esempi di persone famose, di persone sconosciute, e anche attraverso quello che io vivo da padre, ho raccontato appunto quanto è in realtà importante e quanto possa essere uno strumento persino educativo il calcio per i padri nei confronti dei figli. Fulvio, tra l'altro qui noi in trasmissione parliamo spesso di ponti generazionali, no? Il calcio mi sembra in questo senso uno dei più forti, uno dei migliori, anche perché poi il gioco, no? Il gioco del calcio stesso, ma il gioco in generale, è proprio una maniera con la quale i bambini tentano di appropriarsi del mondo, di relazionarsi al mondo. E forse il segreto di questo passaggio di testimone, no, di cui tu parli, è proprio che in realtà è come se fosse un passaggio che avviene quasi fra coetanei, i bambini che sono stati, che passano il testimone ai bambini nuovi. Sì, aggiungo un'altra cosa, siamo noi padri che ogni volta che entriamo in uno stadio torniamo bambini, sì, e i bambini che quando entrano in uno stadio si sentono in un mondo di adulti, quindi anche in quel momento si è alla pari. Il calcio è uno strumento assolutamente democratico perché mette alla pari tutti nel momento in cui si è sugli spalti a tifare per la stessa squadra, indipendentemente dalla condizione sociale, dalla professione o da qualsiasi cosa. In più azzera le differenze d'età, per cui se io e mio figlio di 7 anni andiamo allo stadio, siamo due coetanei che stanno guardando la stessa cosa e stanno sperando naturalmente nello stesso obiettivo. Sì, una bella giostra generazionale, assolutamente. Fulvio, tra le tue tante storie ce n'è una che secondo te è più significativa di altre, una che ci consigli da raccontare appunto per in questo momento un po' di depressione. Francamente io sono affezionato un po' a tutte, anche perché già tutte nascono da una selezione di storie, perché naturalmente entrando in questo mondo entri in un mondo da cui poi rischi anche di non uscire più, perché diventa una specie di ossessione quella di continuare a cercare storie di padri e figli. Quindi non ne ho una in particolare. Certo c'è ad esempio la storia tra le meno note, perché è chiaro che i Maldini, la dinastia dei Maldini è una storia abbastanza nota, è chiaro che lì racconto come possa nascere un figlio campione da un padre estremamente discreto nonostante si parlasse di Cesare Maldini. Sì. Ci sono le storie dei padri che invece influiscono troppo o sono troppo esigenti nei confronti dei figli e finiscono per creare dei rapporti malsani o anche un legame malsano con il pallone. Poi c'è ad esempio la storia di un padre e un figlio che allo stadio ci andavano sempre insieme, che ci sono andati insieme anche in un Roma-Bayern di 2 anni fa, parlo di Stefano e Cristian, due tifosi romanisti, che purtroppo al ritorno sono morti insieme in incidente, e lì venivano da una sconfitta, e lì parlavo, cioè io racconto della morte dei due in realtà solo alla fine, ma nel frattempo racconto la condivisione bellissima che è venuta fuori nei giorni tragici, in cui comunque il momento catartico per raccontare quel dolore era raccontare quanto erano belli questi due quando andavano allo stadio insieme. Fulvio, possiamo anche dire, visto che parlavamo di calcio come strumento per azzerare le differenze, possiamo citare il fatto che la nazionale femminile invece veleggia a punteggio pieno verso i mondiali del 2019, che insomma, quindi luci e ombre, no? Gioie e dolori, ma insomma le ragazze ce la stanno facendo invece. Il bello del calcio, l'insegnamento del calcio, è che c'è sempre un'altra partita, c'è sempre un'altra cosa a cui aggrapparsi per risollevarsi dopo una sconfitta. Anche noi stessi stiamo, dopo l'eliminazione del mondiale, stiamo pensando a quale nazionale può prepararsi al prossimo europeo nonostante la sconfitta. Quindi il bello, io sto pensando a quale tifare per i mondiali, in verità. Sì, però è chiaro che nei ragionamenti da tifosi della nazionale, sì, certo, pensiamo a quale può essere la prossima nazionale, se ci sono i giovani adatti per poter riaprire un ciclo. Quindi il bello del calcio è che c'è sempre qualcosa a cui aggrapparsi per risollevarsi quando si è perso. Palla avanti, esatto, palla avanti e pedalare anche esatto, appunto nelle emozioni. Esatto. Un giorno questo calcio sarà tuo, Fulvio Paglialunga, i Padri Eterni. Grazie Fulvio, buona domenica. Grazie a voi. Noi ci fermiamo, il traffico, poi ancora qua. Padri Eterni. Eccoci qua ancora con i Padri Eterni. Matteo, facciamo un piccolo viaggio nel tempo. Noi spesso, ovviamente, nella nostra puntata parliamo di educazione, di rapporti, di attività, e ci rivolgiamo quasi sempre a bambine e bambini. Un po' insomma, il target è quello dei nostri figli, che vanno dai 3, la più piccola tua? 4. Dai 4 ai 20, ok, quindi insomma già attivi, già presenti, già con i quali si fanno attività. Invece ci vogliamo rivolgere a quei papà che lo stanno per diventare o lo sono appena diventati. E lo facciamo prendendo spunto da un bellissimo vademecum che è stato realizzato dagli esperti dell'Humanitas San Pio X di Milano, che si rivolge proprio ai neopapà. E c'è con noi Marco Nuara, neonatologo e pediatra, uno dei coautori del vademecum. Ciao Marco, buona domenica. Ciao Matteo, ciao Federico. Ciao Marco. Allora, avete fatto una sorta di libretto delle istruzioni per i papà? Sì, sì. Ma sai, abbiamo considerato che quando nasce un bambino si dice sempre che quando nasce un bambino nasce una mamma, ma poi il papà sembra che quasi non viene nominato. Invece volevamo coinvolgerlo da subito. E la mamma, quando rimane in gravidanza, si incomincia a informare, a studiare, a preparare. Il papà invece quasi si rende conto di essere papà solo quando tiene in braccio per la prima volta questo frugoletto non sa cosa fare. Rimanendoci anche male, perché il frugoletto non dice ciao papà, grazie per esserci. E tutto quello che fa gli viene detto che non è quello giù, come va fatto, no? Perché poi c'è sempre o la suocera o la moglie che loro hanno studiato e dice no, ma tu non lo fai nel modo giusto. E allora vogliamo spiegare a questi genitori come farlo nel modo giusto e come sentirsi coinvolti da subito, dai primi giorni. Matteo, tu avevi fatto corsi in preparazione? No, ma mi veniva in mente che in realtà non fare niente nel modo giusto è la più grande risorsa dei padri, ma funziona quando i bambini sono più grandi, quando sono così piccoli invece bisogna farlo nel modo giusto. Tra l'altro avete elaborato un bellissimo acronimo di PAPA, che è persona abile nel proteggere e accudire, che non è male come certo, cosa. Certo, no, perché ognuno ha il suo modo di fare le cose, ma l'importante è che le faccia nel modo corretto, per carità, ma ognuno ha il suo modo, ecco. Non è che bisogna farlo per forza come la mamma per farlo nella maniera giusta. Allora, noi volevamo dare ai papà gli strumenti per farlo nella maniera corretta e un po' anche la scusa per dire ai papà adesso lo sapete come farlo, adesso vi tocca farlo, uno, due, se la suocera vi dice che non lo fate nel modo giusto, voi fate vedere il vademecum e dite no, ma io ho fatto il corso, io sono capace. Esatto, leggevo il cambio pannolino in 5 mosse, che sembra sì. Quasi appunto metti le catene dell'auto in 3 passaggi, ok. Il routine, un lavoro da papà? Sì, perché la mamma poveretta è impegnata nell'allattamento, che è sicuramente un'attività molto impegnativa e molto importante. Se la mamma, dopo che ha allattato magari per un'ora, ha 2 ore e mezza, 3 per riposarsi e passa anche mezz'ora a far fare il routine al bambino, poveretta non si riposa mai. No, il routine è roba nostra, cioè si preleva quando ha fatto il pieno e si fa fare il routine. Ma tra l'altro la cosa che mi interessava, no, del discorso di Marco è proprio che è una grandissima verità, che il nostro spaesamento di fronte alla nuova nascita è totale, perché alla fine le donne, le mamme, no, hanno questo legame anche biologico col figlio, perciò letteralmente, no, cresce dentro di loro, la costruzione del rapporto comincia già da prima. Noi ci troviamo con questo alieno fra le mani, non sappiamo da che parte prenderlo, come ci sentiamo estranei, quindi ben vengano questi vademecum che ci aiutano, no, a far chiarezza e soprattutto a comunicare che anche noi siamo parte della faccenda. Oltre che neonatologo sono ovviamente padre di due bambini e io ho vissuto in prima persona questa cosa su di me, pur sapendo come muovere le mani. Devo dire, io mi sono sentito papà forse dai 6 mesi in avanti, un po' per magari lo scarso tempo dedicato alla famiglia perché c'era tanto da lavorare, un po' perché fino a che non riesce a stabilire una reciprocità di coinvolgimento, cioè finché il bambino non prende le cose, finché non ti afferra il naso, finché non ti fa un sorriso, finché non si gira, non si muove, sembra un bambolotto in braccio alla mamma, ecco, per cui capisco che alcuni papà facciano un po' fatica a stabilire un contatto col bambino già da subito. Certo, il bagnetto, il gioco, quando si viaggia in auto, come mettere in sicurezza la casa, insomma tantissimi piccoli consigli, banali a volte, però non ci hai pensato perché appunto non ci hai portato attenzione. Tutto questo è il vademecum. www.sanpiox.net è il sito del San Pio X di Milano per avere tutte le informazioni sugli incontri organizzati per il nuovo papà e anche eventualmente per il vademecum. Ciao Marco, grazie, buona domenica. Grazie a voi, buona domenica. Grazie Marco. Chiudi gli occhi, immagina una gioia, molto probabilmente penseresti a una partenza. Ah, si vivesse solo di inizi, di eccitazioni da prima volta, quando tutto ti sorprende e nulla ti appartiene ancora. Penseresti all'odore di un libro nuovo, quello di vernice fresca, a un regalo da scartare al giorno prima della festa, al 21 marzo, al primo abbraccio, a una matita intera, alla primavera, alla paura del debutto, al tremore dell'esordio, ma tra la partenza e il traguardo. Cambia cambia tutto quando nasce un figlio. Abbiamo ascoltato prima i consigli anche pratici per il papà, e adesso continuiamo a cercare di capire cosa succede quando si passa di fatto dall'io al noi. E questo passaggio è un po' il cuore anche del nuovo libro di Fabio Volo, Quando tutto inizia, che non è proprio una storia di paternità, è una storia di amore, è comunque una storia di cambiamento, anche se lui, insomma, è un gran papà. Ciao Fabio, benvenuto ai Padri Eterni. Buongiorno a tutti, ciao ragazzi, buona ciao domenica. Fabio, ricordatevi di santificare le feste. Tu lo fai stando con i tuoi figli, credo, oggi, vero? Esatto, esatto. Io adesso sto caricando la lavastoviglie, non so se sentite i rumori. Esatto. Questa nuova vita. Faccio il casalingo in questo momento. Quando tutto inizia, il tuo nuovo libro, il tuo nuovo romanzo, com'è stato? Dove sei partito? Qual è l'incipit? Guarda, questo libro, a differenza degli altri, è una storia tutta sua, completamente diversa. Io non la volevo scrivere questa storia, mentre nelle altre sono colpevole al 100%, questa invece no, perché io volevo scrivere un'altra storia che era sul mondo del lavoro, mi interessava un altro tema. Poi ho detto ci metto una storia d'amore così per renderlo un po' più appetibile, e invece poi quando ho detto scrivo quella, così dopo mi dedico alla storia primaria. E invece questa qui, nell'iniziare a scriverla, non ho più smesso, sono arrivato a 200 pagine, mi sono affezionato a questi due personaggi e alla fine quello è diventato il libro, insomma. E in questo libro la mia paternità è entrata semplicemente dal fatto che, avendo dei figli, avendo una vita completamente diversa da quella di qualche anno fa, ho imparato delle cose grazie a loro, che è, diciamo, come dire, è una grammatica nuova che mi fa vedere il mondo in maniera diversa. Quindi è entrata nell'analisi di questa storia, perché questa storia è una storia che non racconta un, certo, un momento. Di solito i miei libri raccontano un momento della mia vita, no? Invece questo è come se lo avessi scritto 10-15 anni fa, perché è una storia d'amore di due amanti che riescono a ritagliarsi un angolo, diciamo, nel mondo dove poter rivivere un'adolescenza senza le seccature della vita adulta. Quindi sono andato a rivisitare, a scrivere una mia vecchia storia, più che con gli occhi nuovi, con gli occhiali nuovi. Che però è una cosa che non so se hai notato, se avete notato, è molto diffusa, e questa forse è una cosa affascinante. Se ascoltate l'ultimo disco di Jovanotti, sembra un suo disco vecchissimo, almeno del 92, se ascoltate Bruno Risas, sembra Lucio Dalla, De Gregoris, Stranger Things, è ambientata negli anni 80, cioè è la famosa retrotopia di Bauman. Ecco, io e Bauman siamo colleghi in questo. Da sempre, tra l'altro. Non l'hai detto, devi dire che sono ironico, sono un disastro, Fabio, no, dici la paternità non c'entra naturalmente con la vicenda in senso stretto, però quando dici che le cose importanti iniziano quando tutto sembra finito, cioè la paternità in un certo senso comincia proprio quando sembra finita la vita di prima, invece se ne apre un'altra che fa impallidire tutto il resto, no? Alla quale non siamo pronti. Tu stesso hai espresso un concetto una volta, che poi la paternità è l'unica professione della quale non ti puoi dimettere mai più. Ma soprattutto dopo un po' che ci sei dentro, pensi alla tua vita prima e non ti sembra neanche di averla vissuta. Cioè, ti sembra che quella prima vita era solo semplicemente un sogno, che è solo questa che hai adesso. Sì, una rincorsa. Io veramente una volta potevo andare a bere una birra senza dover chiedere il permesso a nessuno. Cioè andavo, uscivo, tornavo quando volevo, conoscevo una. Mi sembrava una cosa tipo di quasi di fantascienza, come se non fosse veramente reale. Invece adesso, insomma, è cambiato questo noi che sovrasta l'io. E oggi parleremo anche di lettura ad alta voce. È vero che stai leggendo il libro Cuore ai tuoi figli? L'ho letto da qualche parte. Allora, sì, tra l'altro oggi è il compleanno di mio figlio più grande. Oggi compie 4 anni. Festa. Super contenti, quindi oggi ci sarà una grande festina. Sì, forse viene anche il mago a fare i giochi di prestigio, che lo volevo per me più che altro. E sì, perché io leggo la sera prima di andare a dormire. Poi devi sapere che io, avendo la compagna islandese, ho i libri in islandese, quindi non ci capisco niente. Poi abbiamo i libri in inglese, perché serve anche questo nella vita. E poi abbiamo i libri in italiano, quindi io sono addetto a quelli, diciamo, italiano, ogni tanto con l'inglese, ma più che altro le figure. E siccome loro tanto non è che mi ascoltano proprio concentrati, solo ho pensato di leggere un libro che piace a me, e io non l'avevo mai letto, il libro Cuore. Me l'hanno regalato e ho iniziato a leggere, e mi ha preso il primo giorno di scuola, i rapporti, il bullismo, c'è tutto. È un libro super contemporaneo. È appassionato anche loro, perché sono un po' piccolini per il libro Cuore, no? Sì, sono piccoli, ma difatti loro stanno lì, io leggo all'alta voce, ma leggo per me. Tra l'altro, cioè, dei amici, quando ha scritto quel libro era anche molto criticato, perché lui comunque era una letteratura molto semplice, però aveva portato molti italiani a leggere, insomma, persone che prima non leggevano. È un libro che ti aggancia assolutamente. Fabio, una battuta, tu sei sposato con un islandese. Sì. Io quest'anno i mondiali li vedo. Ottimo, perfetto. No, volevo chiederti, io ho fatto 3 figlie con una bresciana, quindi capiscimi. Oh, ecco, hai consigli? Guarda, le bresciane ti rispettano se lavori molto, più che se le ami tanto. Se fa vedere che sei uno che lavora tanto, loro ti apprezzano di più. Sono in radio la domenica, quindi vado benissimo. Esatto, bravissimo. Quando tutto inizia, nuovo libro di Fabio Volo, edito da Mondadori. Adesso ti lasciamo perché credo che il mago stia arrivando, quindi dai, ci siamo quasi. Allora, tra l'altro il mago non lo sa che io sono appunto di Brescia e forse viene col coniglio, lui non lo sa che io sto già preparando la polenta. Allora, no, non la possiamo dire che gli animalisti si offendono, poi il coniglio era la specialità di mia donna, io non lo so fare bene. Ciao Fabio, grazie, buona domenica. Ciao Fabio. Ciao. Noi ci fermiamo al momento della pubblicità, poi ancora qua con i Padri Eterni. Logica, spazio, tempo, Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta. Padri Eterni. Ciao, sono Nisia, ho 13 anni e un consiglio che darei ai babbi è quello che non devono essere troppo oppressivi, ma devono un po' lasciare andare i propri figli e non si devono preoccupare troppo, perché comunque i figli devono essere autonomi e devono, i genitori, soprattutto anche i padri, devono lasciare andare un po' i propri figli. E questo è il consiglio di Misia, il consiglio ai babbi, perché è romagnola, quindi lei è più per babbi eterni più che padri eterni. Tra l'altro Misia ha perfettamente ragione, a parte che inconsapevolmente, credo, ha citato Gibran, no? Quando dice che i figli non sono nostri. Il problema che cos'è? Che la cosa più istintiva che ti viene da fare con l'amore è sempre quello di proteggerlo, no? Vorrei dire a Misia che insomma alla fine queste figlie devono anche un po' capirci, perché nel gioco delle parti, no, ci sta che il padre sia quello che cerca un pochino di trattenere, ma mettiamola così, lo facciamo per permettere loro di guadagnarsi la propria libertà. Tu dici che dovremmo fare anche una rubrica al contrario, dove noi diamo consigli ai figli e alle figlie. Potrebbe essere interessante, credo che le figlie l'ascolterebbero poco, come giusto che sia. Questo è il consiglio di Misia, ovviamente aspettiamo i vostri, radio24.it, potete mandarci messaggi vocali. Ora invece andiamo a leggere ad alta voce. Ciao, io sono Viola. E io sono il papà di Viola. E io sono il paperotto di Viola. E oggi siamo qui sul divano di Viola, reduci da una piccola gita alla biblioteca comunale, dove Viola ha trovato un libro bellissimo che ha voluto assolutamente portare a casa con noi, vero Viola? Sì. Che libro è? Il libro delle principesse. Wow! Ci pensa il tuo papà. Senti papà, cosa faresti se cadessi in acqua? Mi butterei per ripescarti. Tutto vestito? Tutto vestito. Un giorno un topino allegro e gioioso andò a passeggiare nel bosco frondoso. La volpe lo vide. Che buon bocconcino, pensò, osservando il bel topolino. Un po' di voci che abbiamo trovato su YouTube sono papà che leggono ad alta voce. Dai, insomma, la sappiamo l'importanza del leggere libri, del leggere ad alta voce, però è durissima. Arrivi alla sera a casa stanchissimo e tutto hai voglia di fare fuorché metterti a leggere un libro ad alta voce. Possiamo ammetterlo che, insomma, è dura quel momento. Non guardarmi con quella faccia, lo so che fai fatica anche tu. Sì, faccio fatica anch'io, ma io ho scoperto un trucco che è leggere a bassa voce. Ah sì, così vi addormentate. Esattamente. Okay. Invece andiamo a capire perché davvero è importante mettersi lì, riuscire a trovare quello spazio, fare quel sacrificio, perché non solo la lettura, ma la lettura ad alta voce, quindi dove la tua voce c'è, risuona, avvolge i figli, è importante. Lo facciamo con Maria Elena Scotti, dottore di ricerca, lavora presso il Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione all'Università di Milano Bicocca, che ha fatto una bellissima ricerca proprio sul valore dei padri che leggono ai figli. Ciao Maria Elena, buona domenica e benvenuta ai Padri Eterni. Grazie, buona domenica anche a voi. Buona domenica. Allora, perché leggere ad alta voce? Ci sembra quasi banale la domanda, però la risposta invece credo sia più strutturata e più articolata, vero? Sì, leggere ad alta voce è importante per i figli. Ci sono ormai molti studi che dimostrano l'importanza della voce paterna nella lettura. In particolare ci sono addirittura delle raccomandazioni europee di una commissione di esperti che dice che è importante soprattutto per i figli maschi, perché questo veicola un modello maschile di lettore. I maschi, dicono le ricerche sulla lettura, leggono meno, a partire dall'età delle medie i maschi leggono meno delle femmine. Questo trend, come dire, continua. E una delle motivazioni che appunto vengono rivelate da studi internazionali è quella proprio della mancanza di figure di lettori uomini, e quindi è importante invece il coinvolgimento paterno nella lettura, e questo, come dire, sui figli. Vale anche la lettura, insomma, con qualche sbadiglio ogni tanto, cioè la lettura un po' stanca, quella da dopo ufficio, o deve essere proprio una lettura interpretata da attori? Direi che vale anche la lettura con qualche sbadiglio. Okay. L'importante è che sia una lettura, come dire, fatta quantomeno con un po' di voglia. Tra l'altro, Maria Elena, mi ricordo che leggevo un articolo nel quale si testimoniava poi proprio questa sostanziale differenza anche, no, nella modalità di lettura delle mamme rispetto a quella dei padri. Cioè, sembra che le madri adottino un metodo più pragmatico, forse più simile a quello delle maestre di scuola, mentre i padri hanno un approccio invece che tende più alla divagazione, a domande più astratte, a discussioni più fantasiose. Per quella che è la tua esperienza, confermi questa diversità? Sì, ci sta. I padri spesso, come dire, narrano, raccontano, vanno oltre il testo scritto, gli sta un po' stretto il testo. Ci perdiamo anche lì, insomma. Sì. Però poi dipende un po' da padre a padre, da indole a indole, per cui ci sta questa cosa, ma ci sta poi l'individualità di ciascuno. Certo. È un valore aggiunto anche per il padre, oltre che per i figli. Cioè, c'è una soddisfazione nei padri nel riuscire a prendersi questo tempo per leggere? Sì, la mia ricerca aveva proprio questo come focus, cioè a fronte di numerosi studi che dicono quanto sia importante leggere per i figli, nella mia ricerca sono andata a vedere se la lettura ad alta voce poteva avere un effetto anche sui padri. L'ho fatto intervistando 10 padri con delle interviste e attraverso un questionario che ha coinvolto circa 300 padri. E intrecciando i dati, come dire, statistici e narrativi, i risultati mostrano come questa esperienza sia altamente significativa per i padri. I padri da questa esperienza ricavano un'esperienza relazionale forte. È un momento protetto e privato, un momento in cui non c'è la mamma, è un momento in cui si ricavano, come dire, un ruolo da protagonisti insieme ai figli. È un momento di grande intensità affettiva, perché consente la vicinanza, la coccola, lo stare insieme, consente la condivisione, il guardare insieme il libro, l'essere fianco a fianco. Consente, soprattutto i padri lo raccontano, quando si è stanchi, si torna dall'ufficio, si hanno in testa tanti pensieri, la lettura consente di staccare, perché si possono fare tante cose con i figli anche pensando ad altro, ma non si può leggere ad alta voce pensando ad altro. È proprio cognitivamente impossibile, il nostro cervello non ce la fa, la lettura è un atto troppo complesso, per cui quando leggiamo il cervello non riesce a fare altro, quindi non si può pensare a un'altra cosa. I padri intervistati lo raccontano bene, dichiarano che è proprio un momento in cui si sta con i figli. Ed è quello che piace anche a noi di Padri Eterni, insomma, riuscire a rendere il poco tempo, che insomma, quando è poco, renderlo perlomeno significativo e intenso. Grazie davvero a Maria Elena Scotti, e mettiamo il link della sua ricerca nella nostra pagina Facebook, in modo che, insomma, chi fosse interessato potrà approfondire. Grazie ancora, buona domenica. Grazie, buona domenica anche a voi. E noi continuiamo a leggere ad alta voce, e lo facciamo con Piccola Goccia. Tantissime piccole gocce erano riunite sulla nuvola più vecchia e aspettavano paurose di iniziare il loro primo viaggio nel cielo. Ce n'era una che se ne stava lontana dal gruppo, silenziosa, a occhi bassi. La vecchia nuvola parlò. «Non temete, voi siete gocce di pioggia e senza di voi la terra sarebbe un unico deserto. Finora siete state tutte insieme qui, tra le mie braccia bianche». Ma quando inizierete a scendere, sarete da sole. Vi dividerete. Potreste diventare vapore, grandine o neve. Ma solo se rimarrete gocce di pioggia, vi ritroverete nel mare e potrete continuare il viaggio eterno fra terra e cielo. anche se non tutte ce la farete. La paura scosse le gocce, anche quella che si era tenuta in disparte. Non abbiate paura. La paura spegne i sogni. Si intitola Piccola goccia, il racconto di cui abbiamo ascoltato insieme l'inizio. Racconto scritto da Vinicio Marchioni, attore e autore di questa fiaba all'interno del progetto Every Child is My Child, storie vere e magiche di piccola grande felicità, edito da Salani Editore. Sono 33 artisti che hanno scritto un racconto per raccogliere i fondi per costruire la Plaster School, una scuola al confine con la Siria. E con noi c'è proprio Vinicio Marchioni, ve lo ricorderete, il freddo di Romanzo Criminale. Ciao Vinicio! Ciao, buona domenica! Ciao Vinicio! Allora, ti sei messo in gioco come autore. Com'è stato scrivere questo racconto? Da dove sei partito? E il racconto è nato, naturalmente ci siamo dati dei temi, io pensavo appunto di poter scrivere una metafora secondo me anche di questo movimento qui, nel senso che ognuno di noi fa l'attore, il personaggio dello spettacolo, il cantante, c'è veramente di tutto all'interno di questo movimento, però se non ci fossimo riuniti tutti non saremmo stati in grado di portare avanti questa idea di raccogliere questi fondi per costruire la Plaster School. Quindi da questa cosa ho pensato che potesse essere interessante metaforizzare il sogno di una goccia che però soltanto nel momento in cui arriva a essere una parte integrante di un oceano riesce a trovare realmente la propria identità. Ma ti sei messo in gioco più come artista o più come padre? L'idea di poter scrivere un racconto all'interno di un libro, devo dire, meraviglioso proprio dal punto di vista dell'immaginazione, anche perché ci sono tutte delle illustrazioni disegnate da dei disegnatori straordinari. Sotto Natale auguriamoci che questo libro possa essere uno dei regali preferiti dell'Italia. L'idea di essere nelle case di tutti quanti e di poter scrivere delle cose che potessero essere, come dire, sia lette la sera prima di addormentare i nostri figli mi faceva immensamente piacere, insomma. Quindi mi sono messo in gioco con il piacere di farlo e anche con tutta la leggerezza possibile. Vinicio, no, a parte che si discute spesso, no, dell'utilità della lettura, e quindi in questo caso, come dire, invito gli ascoltatori ad acquistare e leggere questo libro perché ha un'utilità doppia. Assolutamente. No, mi chiedevo, in quanto attore, tu per esempio leggi ai tuoi figli storie, voce alta? Ogni sera in cui sono a casa, prima di addormentarli, ci ridespingiamo la televisione, ci mettiamo nei letti e io gli leggo delle cose, io pure mia moglie Milena Mancini, anche lei fa l'attrice. Da questo punto di vista sono stati fortunati perlomeno. Sicuramente, l'addizione delle fiabe immagino sia corretta per questo. Esatto. Perlomeno quello, diciamo. No, è fondamentale leggere, è fondamentale fargli prendere il contatto proprio con i libri, la pagina e anche l'odore. Uno degli odori che ricorderò sempre di quando ero piccolo era proprio l'odore dei fumetti di Topolino, è una cosa che rimane molto impressa nella memoria, secondo me. Quindi compriamo questo libro perché ha una doppia utilità e facciamo leggere i nostri figli e leggiamo noi, soprattutto. Everychildismychild.it, questo è il sito per tutte le informazioni, storie vere e magiche di piccola grande felicità, 33 protagonisti del mondo dello spettacolo italiano che hanno deciso di contribuire con la loro creatività, il loro tempo, il loro nome, la loro energia, edito da Salani Editore. Grazie Vinicio, grazie. Ciao e buona grazie domenica. Grazie a voi davvero, buona domenica a voi, grazie ancora. Noi ci fermiamo, il traffico, poi ancora qua con i Padri Eterni. Padri Eterni. Away. Sonorità da viaggio con questo brano che si intitola Happy Family, perché è proprio un Happy Family la protagonista che conosceremo tra pochissimo. Ci stiamo collegando con l'Ecuador, con papà Seba, mamma Alberta, le figlie Angela di 9 anni e Anna 7. Sono partiti da Revine Lago, Treviso, quasi 2 anni fa. Sono partiti dalla Terra del Fuoco in bicicletta e stanno risalendo il continente. Ora sono in Ecuador. L'obiettivo è arrivare in California. Una grande avventura familiare. E con noi c'è appunto papà Seba. Ciao Seba. Ciao Federico, ciao Matteo. Ciao, e buona Seba. Domenica a tutti. Buona domenica a te. A voi. Quindi avete deciso di fare una gita familiare? Beh, non proprio così, no, non direi proprio così. Diciamo, è uno stile di vita, non è una vacanza, anche se ci piace tantissimo quello che stiamo facendo, però è un periodo di vita che abbiamo deciso di prenderci e di vivere al massimo come famiglia, di aprirci un po' insieme in questa grande avventura e per poi ritornare in Italia con qualche marcia in più. Siamo partiti quasi 2 anni fa, però è come se fossimo partiti già molto prima, perché tutto l'anno di preparazione per noi in qualche modo eravamo già in viaggio. Dopo tanti sacrifici, perché per realizzare tutto questo non è stata una passeggiata semplice, tuttora ogni giorno è una sfida che nunca termina, come si dice qua. Ogni giorno ci sono nuove sorprese, nuove avventure e veramente non si sa mai come va a finire la giornata, dove si va a finire. Una storia di famiglia, una storia lunga per ora, 18.000 chilometri, tante avventure. Vi consiglio poi di seguirle sulla pagina Facebook happyfamilybiocycling.com. Però Seba, come si gioca il ruolo di papà in un'avventura del genere? Il papà, diciamo che io son cresciuto senza papà, comunque senza una famiglia unita, e questo per me, per la mia infanzia, è sempre stata una cosa un po' difficile. Sono cresciuto in Sudafrica, ho avuto un po' questa infanzia frastagliata, diciamo. Per cui dal momento in cui ho saputo di diventare papà, ho deciso di esserlo veramente e di stare il più possibile con mia figlia, che poi sono diventate figlie, per vivere appunto quello che in qualche modo non ero riuscito a vivere io. Anna quando aveva 6 mesi, l'Angela 2 anni, siamo stati a Capo Nord, abbiamo fatto questo viaggio a Capo Nord, abbiamo fatto un viaggio in Sudafrica, sempre in semplicità, da solo con loro in bicicletta. Ho fatto l'Isola d'Elba, sono andato in Austria da solo con loro in un carretto, condividendo un po' la passione della vita outdoor, e su questa base abbiamo pensato di creare un po' il progetto, nel senso abbiamo deciso di riuscire in qualche modo a mettere insieme un progetto e di costruirlo insieme come coppia e insieme come famiglia, perché un viaggio del genere non potrebbe durare così a lungo se solo io sono quello che lo vuole portare a termine o lo vuole fare, insomma. Per cui questa è forse la difficoltà maggiore, riuscire a mantenere l'equilibrio tra di noi stando sempre insieme, perché è il bello e il brutto di stare sempre insieme, che alle volte uno vorrebbe anche avere i suoi spazi, sì, le bambine, che noi, e questo non è una cosa facile da gestire. Noi siamo da 1 anno e 10 mesi sempre insieme. Ci parli un po' dell'educazione delle bambine, cioè di questo progetto di road schooling, no? Di scuola di vita che state portando avanti. Come funziona? Abbiamo ricevuto il permesso da parte della direttrice scolastica, da parte del sindaco del nostro paese, di prenderci la responsabilità dell'educazione delle nostre bambine. E abbiamo voluto creare un progetto appositamente per la scuola del paesino da dove veniamo noi. E il progetto consiste nel road schooling, così la chiamiamo, scuola di vita, condividere il punto di vista di Angela e Anna, di come stanno vivendo questa esperienza, tutto quello che imparano, e condividere direttamente i loro compagni. E raccontano un po' come la vivono, come la vedono ogni realtà, e questo è interessante perché i bambini anche li seguono con un'attenzione diversa. Eh sì, insomma, diventa una classe virtuale molto allargata, quindi le tue figlie non sono così distaccate dalla loro aula e i ragazzi italiani invece un po' viaggiano rimanendo seduti sui loro banchi, che mi sembra un ottimo scambio. Happyfamilybiocycling.com per seguire l'intero progetto. Noi ci ritroveremo sicuramente in una delle prossime puntate dei Padri Eterni per continuare a pedalare con voi. Ciao e buona domenica. Grazie, vivi papà. Ciao. Ciao Seba, ciao. E siamo giunti al termine anche di questa puntata. Un grazie ad Andrea Roccabella alla parte tecnica e a Miriam Lucchetti che con noi ha scritto il programma. Radio24.it, il nostro sito, da lì potete scaricare il podcast. Se invece volete contattarci, volete mandarci suggerimenti, idee, spunti o critiche, padrieterni@radio24.it per le mail, oppure la nostra pagina ufficiale di Facebook. Adesso è il momento della lettera. Abbiamo iniziato parlando di calcio, e come finiamo, Matteo? Finiamo parlando di calcio perché ci toccava, era il cuore che lo voleva. La lettera di questa settimana è a Gigi Buffon. Vai! Lettera aperta a Gigi Buffon. Caro Gigi, le tue lacrime trattenute a stento dopo la tragica partita con la Svezia, mentre ti rivolgevi a tutti gli italiani, compresi i tuoi figli che ti stavano guardando, sono state un simbolo potente. Un uomo solo lasciato a gestire la responsabilità della sconfitta davanti alle telecamere, proprio nel momento in cui vorrebbe avere il diritto di sentirsi semplicemente in difficoltà. Sfogarsi, urlare, maledire il destino, piangere, senza sentirsi giudicato per la propria fragilità. Ci insegnano da sempre che gli eroi sono tali quando vincono, invece lo sono soprattutto quando perdono. Nell'attimo in cui si fanno carico di mantenere la lucidità e trovare le parole, anche per tutti gli altri. Il calcio in fondo può essere tante cose. Un gioco, una metafora, un affare, ma resta soprattutto una forma di narrazione, una maniera per raccontare storie. Fra le storie ci sono quelle che vanno a finire bene e quelle che vanno a finire male. Ma se dalle prime possiamo trarre ispirazione, dalle seconde possiamo trarre esperienza. Quindi, caro Gigi, credo che al di là del dispiacere che tutti condividiamo con te, sappi che l'insegnamento che ci lasci come eroe sportivo, come campione e come padre può adesso considerarsi completo. Ci hai mostrato come si vince e come si cade. Adesso non ti resta che mostrarci come ci si rialza, che è quel che fanno gli uomini.